Questa è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema, tutti i giovedì dalle 14 alle 15, anche se poi spesso si comincia alle 13.30, comunque in diretta su queste frequenze, in streaming dal sito internet della radio, ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. Per le informazioni sulla scaletta di oggi e sulla trasmissione in generale potete consultare sia il sito internet della radio, sempre sull'home page, colonna centrale, alla voce trasmissioni, Visionari, pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, indirizzo di posta elettronica per le comunicazioni è visionari@ondarossa.info. Siamo in collegamento con la nostra prima ospite, Maria Di Razza, regista del corto In Felix, che sarà proiettato al Clorofilla Film Festival il 12 agosto ed è un cortometraggio in concorso. Maria, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Ciao, grazie, ciao a tutti, grazie della bella accoglienza. Allora, In Felix, dici un po' come nasce quest'idea e allora cominciamo intanto dicendo qual è l'argomento. Allora, In Felix è un lavoro in animazione che racconta una tematica molto scottante e sentita nel mio territorio e non solo. Io sono napoletana, sì. E il corto parla della terra dei fuochi, è un corto in animazione fantasioso, ma che però prende spunto dalla realtà. L'argomento è il processo Resit. La Resit è una discarica che è a Giugliano, in piena terra dei fuochi, sì. Su cui la magistratura ha cominciato a fare indagine una decina di anni fa. Negli anni 80 e negli anni 90 molti imprenditori del nord, soprattutto senza scrupoli, per motivi economici, perché smaltire rifiuti tossici è costoso, hanno trovato questo escamotage, diciamo, per smaltire questi rifiuti tossici, e hanno trovato terreno fertile, purtroppo, nel gestore di questa discarica, che era un po', come dire, l'anello di congiunzione fra il clan dei Casalesi e questi imprenditori senza scrupoli. E nel 2008 è stata data incarico a un geologo toscano di, sì. di sondare tutta l'area intorno a questa Resit. Lui ci ha lavorato 2 anni e nel 2010 ha consegnato alla magistratura questo trattato, che adesso è libero e si trova in rete, e invito a fare una ricerca, diciamo, su questa perizia Balestri, perché è veramente terrificante. Io sono venuta a conoscenza da un articolo di giornale, ho letto sul Fatto Quotidiano di questa perizia nel 2013, perché nel frattempo questa perizia è stata segretata per 3 anni per permettere le indagini. E quando ho letto questa cosa, insomma, io volevo in qualche modo raccontarlo, però ho scelto una strada, diciamo, da un lato poetica e dall'altro molto drammatica, che era, insomma, l'animazione si prestava a fare questo. Insomma, non ho voluto fare un'operazione tipo report di denuncia. Non essendo io un giornalista, non avrei proprio saputo farlo. Ho voluto raccontarlo in animazione e diciamo, nel corto si racconta un esodo che, allora, nella perizia la conclusione è, secondo questo geologo, che nel 2064, quindi non fra molti decenni, il percolato prodotto da questi rifiuti tossici arriverà alle falde acquifere, per cui, compromettendo l'acqua del territorio, non ci sarà più vita, non ci sarà più agricoltura, non ci saranno più animali che possono pascolare. E quindi ho immaginato un esodo del popolo campano fuori, insomma, che è costretto ad allontanarsi dal territorio. Insomma, questo è più o meno quello che viene raccontato nel corto. La, come dire, la, Il cinema sicuramente non è la soluzione del problema, però se in qualche modo invita a riflettere, insomma, un po' ha fatto il suo dovere, diciamo, di cinema sociale, che è il cinema che a me piace molto. Senti, proprio in questo senso, Maria, volevo chiederti se il Clorofilla rappresenta una prima uscita pubblica del tuo lavoro o comunque sta facendo già un percorso. No, no, il corto sta girando tantissimo. Okay. Penso sia il 31esimo, se non erro, festival. Sta girando molto, è stato pure fra i 10 corti selezionati nei Nastri d'Argento. Ha fatto un sacco di festival e anche all'estero, perché essendo un film muto, diciamo, solo come, cioè parlano soltanto le immagini, e anche, cioè, il problema dei rifiuti non è un problema soltanto nostro, è un problema, diciamo, globale, quindi sta andando anche all'estero, sta facendo un bel percorso e sono contenta, al di là della soddisfazione che ovviamente ogni regista ha di veder girare il proprio lavoro, proprio perché si riesce a portare in giro una tematica che è così attuale e scottante. Sì, sì, sì, sì. Senti Maria, rispetto invece all'animazione, cosa ci racconti? Di chi Guarda, è opera? Questo è stata, sì. Nonostante sia un lavoro di 9 minuti e mezzo, insomma, di neanche 10 minuti, ci abbiamo messo 2 anni per realizzarlo. Certo. Un po' perché non ci sono poi questi grandi mezzi, che non ho la Pixar alle spalle, quindi ho fatto un crowdfunding fra amici, colleghi, insomma, ho fatto un po' della raccolta fondi. I disegni, che io trovo essere molto belli, sono tutti fatti a mano a china da un ragazzo che si chiama Domenico Di Francia, che ha fatto un lavoro incredibile, tutto proprio completamente fatti a mano. Poi questi disegni li abbiamo scannerizzati, quindi digitalizzati, e con 3 software poi abbiamo realizzato il tutto, tutta della famiglia Adobe. Con Photoshop li abbiamo scontornati, divisi in livelli, e fatto tutto ciò che c'era bisogno di fare per preparare il disegno all'animazione. Con After Effects l'abbiamo animato e poi con Premiere abbiamo montato. Bene. E questa operazione, insomma, è stata una, cioè, solo per passione poi si può fare, perché poi i corti non hanno mercato, non hanno, cioè, hanno solo la visibilità, girano per i festival in Italia, noi non è che abbiamo anche neanche un canale che trasmette corti al cinema prima dei film, cosa che so che si fa all'estero, in Francia, in Italia non abbiamo questo, quindi veramente lo si fa per passione. E ci sono voluti 2 anni. Poi la colonna sonora, che anche quella secondo me è molto bella, Antonio Fresa ha fatto un lavoro, ha, come dire, dosato su ogni immagine una nota, se ti capiterà poi di vederlo. E mi capiterà sì, perché sarò al Clorofilla, per cui. Ah, perfetto. E lui ha fatto un lavoro, anche lui, secondo me, molto poetico. Ho avuto carta bianca perché avevo molta fiducia in lui e nel suo lavoro. Lui è un artista napoletano molto bravo, quello che ha fatto la colonna sonora dell'Arte della Felicità, altro film animazione, e adesso quello che La Gatta Cenerentola, insomma, questi sono i 2 lavori più grossi sui che mi vengono in mente. Maria, e quindi è stato un lavoro corale di varie persone che hanno collaborato alla realizzazione del progetto. Bello, bello. Maria, in chiusura ci lasci tutti i riferimenti web per avere più informazioni? Guarda, io non ho una pagina dedicata proprio al corto. Le informazioni del corto, i festival, insomma, li pubblico sulla mia pagina Facebook, Maria Di Razza. È lì che poi si possono trovare un po' di informazioni sui festival, soprattutto poi d'estate, che c'è, insomma, la concentrazione del maggior numero dei festival, insomma, ogni settimana messo ci sono un paio di festival dove c'è il Felix che gira. Purtroppo non riesco ad essere presente ovunque, mi piacerebbe, però un po' lavoro, un po' viaggiare costa, quindi non sempre riesco ad essere presente come vorrei. Allora, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Ok, grazie mille, grazie dell'ospitalità, buon lavoro. Ciao Maria, ciao. Ciao. Maria Di Razza, regista del cortometraggio Infelix, in concorso al Clorofilla Film Festival, proiettato il prossimo 12 agosto. Eccoci con Simonetta Grechi, curatrice della 16ª edizione del Clorofilla Film Festival al Parco della Maremma a Grosseto dal 4 al 15 agosto, festival al quale abbiamo dedicato la copertina della puntata di questa settimana con la locandina, festival con il quale Visionari ha un rapporto strettissimo fin dalle prime edizioni, per cui Simonetta, ben ritrovata. Grazie. Allora, la nuova linfa del cinema italiano, opere prime e seconde e poi tanti documentari e cortometraggi, raccontaci un po', Simo. Allora, dunque, iniziamo domani, come già hai annunciato, con una serie di corti realizzati da autori del, diciamo, toscani o comunque della nostra zona. Poi nei giorni a seguire avremo diversi documentari con una particolare attenzione verso temi come l'alimentazione, l'agricoltura, gli orti sociali, poi spazi per altri festival di cinema, il concorso per i corti. Nella serata di Libera avremo anche due documentari a tema e tanto altro. Senti, è un festival che comunque ha un periodo ampio, piuttosto ampio, e vari luoghi in tutta Italia, giusto? Sì, anche ieri avevamo una serata a Cassero di Grosseto con l'associazione Kansas City e abbiamo proiettato Orecchie di Alessandra Ronadio, e questa, diciamo, era la quarta proiezione che facevamo in questo spazio, e poi anche a settembre avremo altri due documentari. Bene, bene. E poi vabbè, abbiamo iniziato quest'anno abbiamo iniziato al Cinema Stella di Grosseto, poi sempre in questi giorni siamo alla festa della Dieta Mediterranea di Pioppi, poi a settembre saremo a Santa Margherita Ligure al Posidonia Green Festival e chiuderemo allo Spazio Alfieri, come ormai accade da alcuni anni, questo ottobre, sì. Per cui sì, siamo un po' dilazionati nello spazio e nel tempo. Siamo un festival anomalo. Senti Simo, ci sono anche alcuni ospiti tra gli autori? Sì, avremo sicuramente domani gli autori, diciamo, della nostra zona. Poi Thomas Torelli il 15 agosto con la biologa nutrizionista Marilu Mengoni, che è all'interno del suo documentario Food Revolution. E purtroppo non avremo molti ospiti quest'anno per una questione anche di economie che sono sempre molto ristrette. Sì. Senti, come è strutturato il festival? Quali sono, allora, le proiezioni tutti i giorni e gli orari? Allora, le proiezioni iniziano tutte alle 21. Okay. Poi, come di consueto, abbiamo degli appuntamenti alle 19:15 nell'Uliveto, che sta sopra lo Spazio Cinema, dove avremo come ospiti scrittori, attori e teatranti che ci accompagneranno, diciamo, all'ora delle proiezioni. Okay. Allora Simo, ci dai tutti i riferimenti web per la programmazione? Sì, allora il sito di riferimento è quello di Festa Ambiente, www.festambiente.it, la sezione è quella di Fila, e ovviamente Festa Ambiente non è solo cinema, non è solo quello, diciamo, che ruota attorno a Clorofilla, ma è anche tanto altro. Ci sono ogni sera concerti, incontri, animazione per bambini e teatro ragazzi, insomma ce n'è un po' per tutti i gusti. Senti, rispetto al clorofilla per tutte le età. E per tutte le età. Sì, rispetto al clorofilla che tu segui da sempre, e come si è sviluppato nel tempo? Che bilancio ne fai di questa esperienza, Simo? Oddio, che domanda. perché comunque ha conosciuto pure uno sviluppo, si è anche un po' modificato rispetto agli inizi. Sì, diciamo nel corso di questi anni sì, abbiamo sempre cercato di modificarci o comunque di aprirci anche ad altre forme artistiche. Questo diciamo è anche una necessità legata al fatto appunto che siamo un piccolo festival, dobbiamo sempre reinventarci per vivere e sopravvivere soprattutto. Per cui diciamo cerchiamo di trovare gli stimoli da alcuni aspetti che magari possono anche essere un handicap in qualche modo. Le scarse risorse economiche magari poi ci portano diciamo a lavorare molto di più di creatività, ecco, e sì. di per inventarci situazioni anche che possano in qualche modo trasformare una contingenza diciamo negativa in qualcosa di invece di positivo. Finora diciamo è stato così, poi vedremo, non lo so. Senti, prima hai fatto anche riferimento a altri due spazi a Grosseto per le proiezioni, volevo chiederti com'è la situazione cinematografica dal punto di vista proprio di spazi e occasioni di incontro nel territorio. Senti, quello che appunto cerchiamo di fare noi, essendo un festival molto piccolo, è proprio quello di cercare collaborazioni con soggetti affini, sì. Per cui l'associazione Kansas City è sicuramente una di queste, il Cinema Stella allo stesso modo, poi ci sono altre situazioni anche che quest'anno parteciperanno alle nostre iniziative, come ad esempio il Festival Resistenze, ad esempio Bianciardi 2022, che è un collettivo di artisti e che diciamo si occupano di letteratura, arte, fotografia, che saranno presenti nello spazio dell'Uliveto. Per quanto riguarda nello specifico il cinema, c'è un grande lavoro fatto in questi anni dal Cinema Stella di Grosseto, che è l'unica sala d'esse diciamo della città in cui noi un po' ci riconosciamo, e sul fronte estivo invece appunto l'associazione Kansas City, che gestisce l'arena estiva del Cassero Senese, con cui anche con loro collaboriamo ormai da alcuni anni e ci troviamo diciamo sulla stessa lunghezza d'onda, perché poi alla fine i nostri obiettivi sono obiettivi comuni, quelli cioè di favorire la promozione di un cinema che magari non trova spazio nei circuiti un po' più tradizionali. Sì, sì, sì. Simo, un abbraccio, ci vediamo domani. A domani, grazie. Ciao. A voi. Ciao. Ciao. Simonetta Grechi, curatrice della 16ª edizione del Clorofilla Film Festival nel Parco della Maremma a Grosseto dal 4 al 15 di agosto. Giovanni Columbu, regista del documentario Surbiles, nella sezione Sign of Life del Locarno Film Festival. Ci siamo spostati geograficamente. Giovanni, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, sì, eccomi qua. Sì. Allora, intanto ti chiedo com'è la pronuncia sarda. Dunque, è Surbiles. Surbiles, ok. Sì. E cosa, che nome è questo? Raccontarci un po'. Beh, dunque sì, sono delle figure immaginarie, credo immaginarie, perlomeno poi salvo scoprire o accertare che magari esistono o sono esistite veramente. Comunque, figure femminili che somigliano molto ai vampiri, ecco, adesso per dirla in breve, Perché sono donne, ecco, che nel sonno escono dal loro corpo, si separa, o meglio, escono dal corpo fisico e così mantenendo le loro sembianze nel corpo astrale o nell'anima, a volte invece trasformandosi in insetti o in animali, entrano nelle case dove ci sono dei bambini e succhiano loro il sangue, ecco. Quindi questo è il mito, detto in due parole. Attorno a questo ci sono una quantità di storie molto affascinanti, non sempre necessariamente fosche e tenebrose, ma spesso comunque, insomma, dove dentro c'è il male ma c'è anche il bene e c'è spesso il lieto fine, ecco. E quindi tutto questo ha dato luogo a questo film documentario intitolato Surbiles. Senti, è un fenomeno che ha un'area geografica più ristretta o interessa tutta la Sardegna? Dunque, è presente soprattutto nelle zone interne, sì. Però c'è stato un po' ovunque poi devi tener conto del fatto che insomma, queste figure hanno qualche cosa in comune, come dicevo, con i vampiri, ma anche con gli sciamani, con i cosiddetti benandanti del Trentino. Insomma, diciamo che pur avendo dei loro tratti abbastanza particolari, poi rimandano a una letteratura, direi, molto vasta e universale. E inoltre hanno delle curiose aderenze con anche fatti di cronaca che purtroppo continuano ad accadere, perché dunque, allora, tutto questo fa capo a un periodo in cui in Sardegna la mortalità infantile era molto elevata, sì, sì. E quindi probabilmente si aveva bisogno di attribuire a questi esseri forse immaginari la responsabilità della morte dei bambini. Ecco, però poi noi sappiamo dalla cronaca che ogni tanto accade che purtroppo qualche mamma compia dei delitti o faccia qualche cosa anche a danno degli stessi propri figli senza esserne consapevole. Infatti la cosa interessante, che adesso qua non si può riassumere in tutta la sua complessità, è che queste donne, donne Surbiles, sono in realtà delle donne buone, normali come tutte le altre, che hanno però spesso a loro insaputa una seconda identità che si manifesta appunto durante il sonno, nel momento in cui avviene la separazione tra il corpo fisico e il cosiddetto corpo astrale. Ecco, questo. Okay. Tutto questo sembra un po', come dire, aderire stranamente o curiosamente a casi di cronaca di cui sappiamo, di donne che magari così hanno fatto delle cose e di cui non sono assolutamente consapevole. Giovanni, per la tua ricerca come ti sei mosso? Dove hai viaggiato e con chi hai interloquito? Allora, lunga ricerca sul campo per rintracciare le testimonianze, diciamo recuperare i racconti. E poi la ricostruzione di alcuni racconti, per cui questo lavoro che così diciamo ha preso le mosse con un'impostazione di tipo documentaristico è diventata per certi versi un film di finzione, perché poi ci sono proprio tutti i racconti che sono stati, insomma, sceneggiati sia pure sommariamente e recitati dalle stesse persone che in certi casi dalle stesse persone che avevano testimoniato questi racconti. Quindi è un'antologia di racconti così, che tendono al fantastico e che raccontano questi casi così abbastanza strani e particolari. Senti Giovanni, dopo Locarno che succederà? Beh, dunque intanto è destinato alla televisione, perché è stato realizzato, oltre che con l'Istituto Luce, apporti da parte della Regione Sardegna e del Ministero, anche con un apporto della RAI. Quindi vedremo, potrebbe anche finire in televisione. E poi avrà quella circuitazione, anche così, si affaccerà nelle sale. Certo non penso che resterà in circuiti abbastanza, come dire, de sé, o comunque insomma stiamo parlando di un'opera povera, essenziale, anche se comunque poi è approdata ad un racconto che spero sia coinvolgente un po' per tutti. Comunque, quindi una sua circolazione ce l'avrà, ancora per adesso non sappiamo, non è stata definita. Senti, un'ultima curiosità anche in relazione a quello, alla tua ricerca, volevo chiederti qual è il rapporto del popolo sardo con la tradizione e con l'immaginario fantastico. Rapporto che direi un po' controverso. Perché da una parte c'è un grande interesse anche in Sardegna per tutto quel che riguarda il passato, sia quello che attiene, come dire, agli accadimenti materiali, alla storia vera e propria, sia quello che per quello che riguarda invece gli aspetti più culturali e anche dell'immaginario, e quindi anche di figure come queste che dicevamo, delle surbiles. Poi, come in ogni mondo che ha subito trasformazioni che sono state in certi casi anche forzate, il rapporto col passato resta sempre un po' difficile, quindi in certi casi c'è il piacere di andarlo a ritrovare, in altri casi invece così si preferisce gettarselo alle spalle. Sì. In chiusura, l'etimologia della parola da dove viene? Credo da sorbire probabilmente. Okay. Vuol dire però non, ecco, forse o non so con sicurezza se è succhiare o fischiare, nel senso emettere uno sibilare, perché sì, tra le tante cose che si dicono è anche che in certe loro metamorfosi così emetterebbero anche dei sibili. Okay. Quindi insomma l'etimologia è incerta. Okay. Però restano così queste figure a cui peraltro diciamo, l'ambiente sardo tradizionalmente comunque riservava una sorta di pena e di compassione, perché insomma erano molto temute ma considerate a loro modo innocenti, cioè come come se fossero in qualche modo possedute o comunque vittime del destino o di qualche cosa di cui non avevano una colpa o una responsabilità diretta. E se ci pensi, anche questo è abbastanza interessante, torna molto con quei casi di cronaca dicevamo che accadono un po' ovunque, purtroppo. Allora Giovanni, io t'abbraccio, a risentirci magari per delle prossime novità su questo lavoro. Certamente. Ciao. Ti ringrazio. Alla prossima. A presto. Ciao. Ciao. Ciao. Giovanni Columbu, regista del documentario Surbiles, nella sezione Science of Life del Locarno Festival. Restiamo a Locarno con Daniele Gaglianone, co-regista del film breve Granma, che sarà in programmazione il prossimo 7 agosto. Daniele, ben ritrovato. Ciao a tutti. Ciao. Tutto bene? Tutto bene, sono in montagna, in Piemonte, sono in un posto dove prende. Per fare la chiacchierata con voi con molto piacere. Bene. Allora, immagino che sia l'abbreviazione di Grandmother il titolo. Sì, allora, il titolo è appunto Gram, che ovviamente è nonna, in questo per noi strano inglese che si parla in Nigeria, che è il Pidgin English, che è una sorta di fatto di Esperanto in un paese dove si parlano 270 lingue, ecco. E quindi il titolo è appunto questo Gramma, che è un diminutivo di, appunto, sicuramente di grandmother, in questa specie di slang, no? Sì, sì, sì. Oh, un'opera che hai realizzato insieme ad Alfi Nze, che è stato anche un nostro ospite per un suo lavoro precedente. Come nasce questo connubio? Ma dunque, guarda, nasce in un modo casuale, perché io, sia io che Alfi, siamo stati contattati separatamente da un'agenzia, la Horas, di Milano, che stava seguendo questo progetto per l'OIM, l'Organizzazione per la Migrazione, sulla migrazione consapevole. E l'idea era quella di realizzare un film corto, un corto lungo, perché poi il film dura tra i 30 e i 35 minuti, che fosse girato da, che fosse realizzato da un regista europeo, nel fattispecie italiano, e un regista africano. E siamo stati contattati, io ed Alfi, che non ci conoscevamo, ma devo dire che dal primo incontro c'è stata subito una grossa empatia. Il punto di partenza era molto forte, e anche ci dava una grande responsabilità, perché il soggetto era di Gianni Amelio, e il lavoro che è stato fatto con Alfi innanzitutto è stato quello di riambientare il soggetto alla realtà nigeriana. Sì, sì. Ed è stato già lì per me un incontro molto molto istruttivo e pieno di sorprese, ecco, perché ovviamente Alfi, essendo un nigeriano che vive qua in Italia da 15 anni, conosce ovviamente molto meglio di me la realtà nigeriana, che e quindi per me è stato molto, molto istruttivo seguire lui nei ragionamenti per tentare di adattare questo soggetto alla realtà nigeriana. È stato un primo approccio già in scrittura a quello che sarebbe stato poi un rapporto, una relazione fortissima con Lagos, che è il luogo dove abbiamo girato il film. Sì. Senti, qual è il racconto di Gramma? Ma guarda, il racconto di Gramma si può sintetizzare così: è la storia di un ragazzo che, con una grande passione per la musica hip hop, in una megalopoli di 20 milioni di abitanti, quindi sono un ragazzo che condivide questa passione magari con dei ragazzi che vivono a New York o a Milano, ecco, no? Per dire. E che deve accompagnare sua nonna a dare la notizia di un lutto di un altro giovane, il suo cugino, che è morto durante la traversata per raggiungere l'Europa, e la nonna deve andare a dare la notizia della morte a sua sorella, quindi a un'altra nonna, la nonna del cugino di questo ragazzo, che vive in un villaggio lontano, e quindi bisogna andare a portare la notizia di persona. Ed è la storia di questo viaggio, l'incontro fra, dell'incontro scontro anche tra due generazioni, e poi insomma accadono alcune cose che fanno prendere le decisioni al ragazzo, diciamo, radicali, ed è un, attraverso questo viaggio emerge, diciamo, il conflitto su sull'andare via o restare, ecco. Ma il ragazzo, questo ci tengo a dirlo, rivendica il diritto di potersi muovere liberamente, ecco, che è un po' il punto centrale di tutta questa, sì, tutta questa questione così dolorosa della migrazione, cioè sì. Il punto è che alcuni hanno il diritto di muoversi liberamente in questo pianeta e altri no. Da questo punto di partenza, sì. Anzi, derivano tutti gli altri. Aggiungo che hanno più diritto le merci alla libera circolazione che gli esseri umani. Ma guarda, io ricordo, sono ormai grandicello, ecco. Ricordo anche con ironia, no? Un articolo degli anni 90 dell'allora presidente della Confindustria, mi pare che si chiamasse Cipolletta, una roba sì. del genere, che appunto in un editoriale, non so più, in quel giornale autorevole, se Repubblica o Corriere della Sera, disse: ma non possiamo, in un mondo appunto che vogliamo globalizzare, negli anni 90, globalizzato, in un mondo liberista dove le merci possono circolare, non possiamo impedire alle persone di circolare liberamente. Ecco, se lo diceva lui, beh, no, forse. Sì, ecco. Sì, sì. Senti Daniele, quella di questo formato è stata una scelta? Ma di questo formato intendi? Di durata. Non ho capito, scusa? Della durata. No, guarda, allora praticamente era un po' era quello che il progetto ci richiedeva. Ah, ok. Devo dire che era da molto tempo che non mi misuravo, diciamo, col cortometraggio, e anche se, ripeto, un cortometraggio, diciamo, anche questo un po' fuori standard, sì, nel senso che sì. di solito, che ne so, i festival di cortometraggi hanno, credo, la limitazione della durata a 15 o 20 minuti, no? Sì. Quindi è già più un mediometraggio che un cortometraggio. Sì. Però è stato interessante misurarsi con una forma narrativa, con una durata che insomma che ti deve costringere, diciamo, a essere più sintetico, no? Perché non hai lo spazio per dare, devi far respirare, diciamo così, devi far respirare la storia secondo altri ritmi. Sì, sì, sì. Bene Daniele, allora spero di riascoltarti presto su queste frequenze. Un abbraccio, un in bocca al lupo. Un abbraccio anche a voi, grazie per seguirmi sempre. È un appuntamento che da anni mi accompagna, la conversazione con voi, che ci fa sempre molto piacere. Bene, bene, fa piacere anche a noi. Un abbraccio e a presto. Ciao Daniele. Un abbraccio anche a voi. Ciao ciao. Daniele Gaglianone, co-regista del film breve o cortometraggio lungo Granma, al Locarno Festival il prossimo 7 agosto. Questa è Visionari su Radio Onda Rossa. Il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Questa settimana ultima prima della pausa di agosto, riprenderemo a fine mese. Per quanto riguarda le informazioni sulla scaletta e sulla trasmissione, c'è a disposizione il sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page, colonna centrale alla voce trasmissioni Visionari, la pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa, l'indirizzo di posta elettronica visionari@ondarossa.info, in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito della radio, sempre sull'home page alla voce ascolta la diretta. Germano Maccioni, regista del film Gli Asteroidi, in concorso al Locarno Festival. Germano, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno, grazie per l'invito. Buongiorno a tutti. È un piacere. Allora, Gli Asteroidi, raccontaci un po' per sommi capi di questa storia. Ah, questa è sempre la domanda più difficile. Però immaginate una pianura bassa, emiliana, piatta, fatta di campi, capannoni e balere che si estendono all'orizzonte, e immaginate il tempo della crisi economica, quindi capannoni svuotati, imprenditori morti sui figli, insomma le macerie di un tempo florido, E in questo contesto una piccola favola però di provincia, con protagonisti quattro ragazzini, due in particolare, in una sorta di romanzo di formazione. Come tutte le favole, anche piccole, c'è sempre il cattivo. In questo caso c'è Pippo Del Bono, che interpreta una specie di orco, e poi c'è Chiara Caselli, che fa la madre di uno dei protagonisti. Questo è un po' lo scenario. Senti, dalla provincia all'extraterrestre, come mai questi corpi celesti? Ma è bello perché molti scambiano il titolo per un film di, insomma, per un film fantascientifico, ma in realtà di fantascientifico c'è poco. C'è però un richiamo a delle atmosfere metafisiche, grazie anche a quella meravigliosa cattedrale che sembra una cattedrale, in realtà è un radiotelescopio, questa parabola, dove uno dei protagonisti va di continuo, e proprio in quei giorni cruciali per le loro vite eccetera, un asteroide sta appunto passando, sfiorando il nostro pianeta, e lui è convinto che non lo sfiorerà, ma invece come dire, lo distruggerà questo pianeta. E per cui c'è anche questa pista sì, che può ricordare in qualche modo la fantascienza, ma è molto molto concreto. Sì, sì, sì. Senti, come viene fuori Asteroidi? Come viene fuori? Sì. Non lo so. Come è nata l'idea, come l'hai sviluppata? Ma sai, questa è sempre una cosa misteriosa. Sicuramente parte da un humus e un terreno in cui sono cresciuto. Io sono cresciuto in quei posti, ed era, beh, se posso, è il mio piccolo Amarcord per certi versi, nel senso che ci sono tanti personaggi che vengono da un mio vissuto, e ovviamente poi che sono trasfigurati e rielaborati e così. Però sì, a quanto pare dovevo tornare un po' sul luogo del delitto, si dice sempre, no? Dobbiamo tornare sul luogo del delitto, ed è uscita poi una storia molto semplice, per cui sono anche, come dire, sorpreso e curioso di vedere come verrà recepita in un festival così internazionale come quello di Locarno. Ecco, a questo proposito, quali saranno poi i passi successivi rispetto all'uscita in sala? Dunque, il film verrà distribuito da Cinecittà Luce. Ok. Tra ottobre e novembre, direi. Queste sono un po' le date, che non sono ancora proprio definite, però quello sarà il periodo. Credo ci sarà un'anteprima italiana verso il finire dell'estate, e poi appunto ci prepariamo a cercare di portare il film in sala il meglio possibile. Come sappiamo, come sai bene, la sala è la fase più delicata, sì, soprattutto in Italia, dove vengono prodotti un sacco di film bellissimi, secondo me, ma che poi è difficile proteggere e divulgare bene, rendere fruibili in sala. Per cui questi saranno i passi. Ci proviamo e ci proveremo al meglio. Un'altra curiosità rispetto al cast: come vengono fuori questi nomi anche rispetto al percorso teatrale cinematografico di un Pippo Del Bono? Sì, ma allora, io stesso arrivo dal teatro, dalla recitazione. Ma un teatro totalmente diverso da quello di Pippo. Pippo però l'ho sempre stimato, in quanto mi sembra uno dei pochissimi attori così con una presenza così selvaggia, così animale quasi, ma nel senso buono. Sì, sì, sì. E poi quando è davanti alla macchina d'attesa, questa cosa proprio arriva, traspare. E volevo lavorare con lui, pensavo che quel ruolo fosse adattissimo, e per cui è iniziata un convincimento, Ma è stata un'esperienza fantastica perché appunto avevo lui da per certi versi, che come dico è abbastanza selvaggio nel suo modo di lavorare, la Caselli che invece è molto più disciplinata, è più attrice diciamo canonica in qualche modo, e poi questi ragazzini che invece sono stati scovati nelle scuole superiori e che però dopo mesi di lavoro, di preparazione, di training con me siamo riusciti a mettere di fianco a professionisti. Questo secondo me è un'interessante commissione. Sì. Senti Germano, in chiusura ci sono dei riferimenti web per saperne di più sul film e sulla tua attività? C'è una pagina Facebook del film che si chiama Gli Asteroidi, che potete andarci, c'è un sito, c'è il sito della casa di produzione, c'è un fantastico ufficio stampa di Cinecittà Luce che tiene aggiornati tutti e tutto, per cui insomma cercate un po' e troverete. Ok, allora un in bocca al lupo Germano, ci sentiamo per l'uscita in sala. Crepi, e certo, sentiamoci. Un abbraccio, mille. Ciao. Ciao, un abbraccio a voi, ciao, buona giornata. Germano Maccioni, regista del film Gli Asteroidi, in concorso al Locarno Festival. E ritroviamo Daniela Persico di Filmidee per parlare con lei del progetto per una controstoria del cinema italiano presentato al Locarno Festival il prossimo 7 agosto. Daniela, ben ritrovata. Buongiorno a tutti. Ciao, ciao. Allora, dici un po' cos'è, mi incuriosiva molto questo lavoro, e allora descrivicelo un po'. Sì, allora è un lavoro che parte da lontano, nel senso che è un lavoro che nasce un po' dalla nostra curiosità nei confronti di una critica fatta in una maniera differente, una critica che possa lavorare con la stessa materia del cinema, quindi con le immagini, e mentre in ambito anglosassone il videosaggio è molto diffuso e ha anche trovato dei nomi come Fogunara, come Kevin Billy, che sono diventati veramente degli studiosi di cinema che realizzano questi piccoli film, questi piccoli film saggio, che intercettano due tipi di pubblico: da una parte il pubblico più proprio generico della rete, che viene magari incuriosita da vedere la geometria dei film di Wes Anderson, piuttosto, no, che riscoprire alcune asimmetrie delle inquadrature di Kubrick, ha invece il pubblico diciamo più specialista dell'Accademia. Vedendo ormai una grande diffusione di questi lavori in rete, ci siamo un po' domandati perché sull'Italia e sulla storia del cinema italiano fossero ancora totalmente assenti, e quindi anche grazie a un bando, il bando Ora della Compagnia di San Paolo, abbiamo potuto sviluppare un progetto che prevedesse di chiamare in residenza a Torino 8 giovani studiosi di cinema con delle idee su quali fossero gli autori da raccontare nuovamente e da diffondere a livello internazionale, e 8 giovani filmmaker che li hanno un po' aiutati a realizzare questo così particolare tipo di critica. Trovo che in Italia in qualche modo ci sia ancora un gap tra chi scriva di cinema e chi invece lo realizza, e quindi forse questa nuova forma di critica cinematografica, di diffusione, chiamiamola come vogliamo, poi del cinema, incontra delle difficoltà dettate dal fatto che un pochino bisogna saper fare cinema per poterle realizzare. Senti, questo titolo, il termine controstoria, e dà proprio l'idea di un momento anche di rottura rispetto a come si è parlato del nostro cinema. Sì, anche se da italiani gli autori che abbiamo scelto non sono degli autori totalmente sconosciuti, però una volta tanto ci siamo messi con la testa fuori dall'Italia, ovvero visto che avevamo un ottimo rapporto, insieme a me ha collaborato al progetto Chiara Grizzaffi, che sta scrivendo il primo libro italiano che verrà pubblicato a breve per Mimesis sul videosaggio. E grazie a lei siamo entrati molto in rapporto con Catherine Grant, che ha un grande portale in cui vengono raccolti tutti i videosaggi del mondo, e proprio analizzando quello che su questo portale veniva raccontato del cinema italiano ci si è resi conto che il cinema italiano attraverso questi videosaggi era unicamente quello di Fellini, Antonioni, Visconti, Pasolini, e non si usciva da questi, certo, grandissimi nomi della storia del cinema italiano, ma nessuno si era cimentato a raccontare altro. E quindi anche insieme a Catherine Grant, che sarà presente nei prossimi giorni qua a Locarno e che è stata anche uno dei motori di questo poi progetto, abbiamo iniziato a pensare questo bando attraverso cui abbiamo raccolto poi diversi progetti per i videosaggi, ipotizzando che si potesse fare una controstoria del cinema italiano, ovvero un po' andare al di là di quelli che sono un po' gli autori consolidati e spingerci verso o alcuni autori proprio poco conosciuti, oppure altri che non vengono ancora, non hanno ancora il giusto peso a livello internazionale. Possiamo fare dei nomi? Sì, allora il percorso spazia da i film di Luigi Comencini a quelli di Lina Wertmüller, ai film di Francesco Barilli, che quindi affrontano tutto più la serie B italiana, a tutto quello che è il videomilitantismo degli anni 70 a Roma, e quindi i film che venivano fatti nel momento in cui si sfrattavano dalle case nelle periferie romane le persone, e qualcuno stava andando lì per rinnovare poi non soltanto con un messaggio politico ma anche per rinnovare il cinema, a Claudio Caligari, che è un grande del nostro cinema e purtroppo è molto poco conosciuto all'estero, a Michetti, su cui è stato fatto un lavoro molto particolare perché nonostante, come ben sappiamo, il cinema italiano ormai sia ancorato alla commedia, lui è stato totalmente espulso da quello che è il cinema italiano e la possibilità di essere finanziati, fino a Franco Piavoli. L'unico film che prende, diciamo, una ottica diversa e una ottica più attoriale è un lavoro dedicato a Totò. Ci sembrava importante realizzare questa cosa perché Totò è spesso ricordato come appunto una figura burlesca, ma poche volte si analizza quanto la componente della morte sia così importante nel creare poi un effetto ironico nei suoi film. Daniela, a questo proposito ci lasci i riferimenti internet per saperne di più su questo lavoro? Sì, allora ovviamente del lavoro si parla sul sito www.filmide.it. A breve ci sarà la proiezione al Festival di Locarno, che si terrà il prossimo lunedì alle ore 17 nel nuovo Palazzo del Cinema, e poi in seguito il film avrà diverse proiezioni italiane. Benissimo, allora un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Grazie, ciao a tutti. Ciao, ciao, ciao. Daniela Persico di Filmidee sul progetto per una controstoria del cinema italiano al Locarno Festival il prossimo 7 agosto. Bene, un doppio collegamento perché abbiamo con noi Silvia Luciani, Adelina Zarlenga, coautrici del documentario Hunger for Bees, che sarà al Clorofilla Film Festival il prossimo 11 agosto. Allora, faremo chiaramente delle domande alternate. Intanto benvenute a Silvia e Adelina, ci siete? Sì, ciao. Ciao, grazie per l'ospitalità. Bene. Allora, cominciamo con Adelina. Raccontaci un po' come nasce questo progetto. Allora, questo progetto è un progetto giornalistico, si intitola Angle for This, e è stato realizzato da me, dalla collega giornalista Monica Pellicci e dalla fotografa Daniela Freccero, un reportage che abbiamo presentato al premio internazionale Journalist Grant del Centro Europeo di Giornalismo e che grazie appunto al Centro Europeo di Giornalismo abbiamo realizzato. È stato pubblicato in Italia su Repubblica L'Inchiesta e poi anche in spagnolo su Efe Verde e in inglese su New International, insomma altre testate un po' in tutto il mondo. Il tema è la relazione tra il declino delle api, quindi degli insetti impollinatori, e la sicurezza alimentare e l'alimentazione, cioè il cibo è stata un po' la chiave di lettura per offrire un nuovo punto di vista sul problema mondiale del declino delle api, toccando un tasto che sta a cuore a tutte le persone, che è proprio quello appunto dell'alimentazione. E l'abbiamo fatto appunto con delle interviste sul campo, incontrando apicoltori, apicoltrici, ma anche persone che sono impegnate proprio per la tutela delle api e dell'ambiente, e incentrando un po' la storia su quattro protagonisti che poi sono diventati, grazie alla regia di Silvia Luciani, le protagoniste appunto del documentario che sarà presentato per la prima volta al Cinefilla Film Festival. Bene. Allora, questa volta Silvia, ti chiedo, Silvia, come è avvenuto questo incontro con loro e come avete proceduto nel lavoro? Certo. Allora, io avevo già collaborato con Monica Periccia a un progetto, una web TV a Roma, e dopo diversi anni ci siamo appunto rincontrate per questo nuovo progetto. E le mie colleghe hanno, diciamo, realizzato degli appunti di viaggio tra l'Italia e l'India, e questo materiale non poteva essere lasciato ovviamente nel cassetto, e quindi l'ho abbracciato e ho, diciamo, realizzato da un punto di vista cinematografico diciamo questa storia che si sviluppa in tre macro capitoli, e rielaborando appunto questo materiale in modo, credo, ecco, poetico, lasciando spazio ovviamente alle parole, alla corrispondenza del reale, diciamo, giornalistico, ma dando anche, diciamo, un taglio, ecco, poetico cinematografico, fatto di momenti di silenzio, di azioni che ovviamente spero possano coinvolgere appieno con lo spettatore. Mm-hmm. E dopo appunto una scrittura del trattamento è stato, ecco, realizzato questo documentario che dura 36 minuti e sono praticamente testimonianze preziose sull'importanza che hanno appunto le api che dovrebbero essere libere appunto di circolare, di dare, diciamo, la possibilità di impollinare in modo invece purtroppo questa cosa non avviene, diciamo, così in Italia come in gran parte del mondo. E quindi le storie vanno a focalizzare, diciamo, alcuni apicoltori e apicoltrici incontrati tra l'Italia e l'India, che con veramente con dedizione, con amore, riescono appunto a fare una vera e propria transumanza delle loro api per poterle appunto farle impollinare in alcuni contesti nelle nostre zone. E mentre in India il racconto si sviluppa in un circuito molto, molto particolare. Hanno scoperto, diciamo, delle donne che appunto con grande amore verso proprio la natura utilizzano le api e hanno visto che questo metodo così naturale, così anche semplice, permette loro di arricchire la loro alimentazione e di permettere di arrivare, insomma, in della famiglia alla fine, insomma, dell'anno, ecco, senza avere problemi con il cibo. Mm-hmm. Quindi assolutamente un modo diciamo giusto che, che ognuno dovrebbe, ecco, perseguire nell'agricoltura. Adesso Adelina, volevo chiederti, tra India e Italia, qual è la situazione, quali sono le prospettive? Allora, sicuramente il problema del declino delle api è un problema globale, quindi abbiamo trovato delle affinità tra quello che succede in Italia e quello che succede poi in India, ma anche in altre parti del mondo. Ci sono tante cause concomitanti, no? che stanno appunto influendo sul declino delle api, ma degli insetti impollinatori, e quindi questo può avere delle ripercussioni sulla produzione di cibo. Siamo partite infatti da una ricerca che sarà pubblicata dall'Università di Harvard sulla rivista The Lancet, in cui appunto si evidenzia che senza le api i paesi in via di sviluppo potrebbero ridurre la produzione di cibo di un terzo, con un impatto sulla salute delle persone che significa anche una mancanza di micronutrienti come per esempio la vitamina A, il ferro, l'acido folico. Quindi senza gli impollinatori addirittura circa 71 milioni di persone si stima che potrebbero soffrire di malnutrizione. E in Italia non abbiamo una situazione determinata da una serie, cioè il declino delle api è determinato appunto da monoculture, coltivazioni intensive, utilizzo di pesticidi che sono appunto dannosi, neurotossici per le api, ma anche cambiamenti climatici. Quindi dove ci sono monoculture, coltivazioni intensive, sicuramente il fenomeno è molto più accentuato, per esempio in pianura padana, dove c'è un largo uso di pesticidi, gli apicoltori riscontrano continuamente delle perdite insomma massicce di api. E anche per questo abbiamo voluto per esempio raccontare la storia dell'apicoltore Giorgio Baracani, che pratica nomadismo in pianura padana e viene praticamente chiamato dagli agricoltori nei campi coltivati proprio per favorire l'impollinazione. Ma questo fenomeno del nomadismo, cioè di portare le arnie nei campi coltivati, è praticamente aumentato anche perché gli agricoltori cercano di sfuggire dall'utilizzo dei pesticidi. E un'altra storia che è una delle insomma principali del documentario è anche quella di Malles, che è il primo comune al mondo, si trova in Alto Adige, ad aver proibito pesticidi in agricoltura tramite un referendum dal basso, e tra i promotori c'è proprio un farmacista che è Johannes Franier. In India abbiamo più o meno gli stessi problemi, certo che la situazione è diversa perché in India c'è un'agricoltura che è più di sussistenza, quindi la maggior parte di quello che viene prodotto viene consumato nel paese, e anche qui appunto le storie che abbiamo raccontato sono un po' emblematiche di quello che succede, perché per esempio la storia di Nima, che è una giovane contadina ed apicoltrice che è stata istruita da un'associazione locale a fare apicoltura, dimostra come avere le api, fare apicoltura in zone che sono praticamente rurali, siamo nel Maharashtra, insomma in una zona molto difficile anche per l'agricoltura. Nima appunto ci racconta che grazie alle api ha avuto delle maggiori produzioni di cibo ed è riuscita anche ad migliorare la sua condizione di salute. Dice: da quando ho le api ho meno febbre, la mia famiglia insomma sta meglio perché c'è più cibo, quindi ci sono più micronutrienti. Oppure la testimonianza di Partiban, sempre in India, che Partiban è sia un apicoltore ma anche un autista di autobus, e lui ha fatto proprio degli esperimenti con le api nei suoi alberi di tamarindo nello stato di Tamil Nadu, e anche lui appunto dimostra come si è aumentata la produzione dei frutti, dei tamarindi, e è diventato anche lui un insegnante di apicoltura, quindi coinvolge altri contadini per migliorare le coltivazioni grazie proprio al prezioso lavoro di impollinazione delle api. sicuramente c'è bisogno di cambiare un po' il modello agricolo, perché le api avvertono, cioè questo declino delle api, queste continue morire anomale ci fanno capire che c'è proprio un problema nel sistema dell'agricoltura. Allora, in chiusura, Silvia, ti chiedo che percorso farà il documentario dopo il clorofilla e se ci lasci i riferimenti web per saperne di più. Certo, in realtà questo festival è proprio il nostro primo appuntamento, la nostra prima proiezione pubblica. Sì. L'idea è ovviamente di mandarlo ai festival che si occupano appunto di ambiente, di sociale. Questo è assolutamente, diciamo, il nostro obiettivo. E poi vedremo, c'è anche la possibilità, insomma lo spero, di poter anche avere delle opportunità di incontri nelle scuole con i ragazzi, che sono praticamente è un pubblico che può darci tanto come confronto. E speriamo che questo piccolo miracolo, che sono storie ovviamente, di esempi veramente positivi, possano arrivare a il maggior pubblico possibile. Certo. Non abbiamo una pagina Facebook di questo documentario, ma i nostri profili dove pubblicizzeremo il percorso sono appunto il mio, Silvia Luciani, su Facebook, Adelina Zarlenga e Monica Pelliccia. E poi ecco questo. Bene, bene. Finisco con questa frase che ci portiamo dietro da qualche mese: ogni ape porta in sé il meccanismo dell'universo, ognuna riassume il segreto del mondo. Ecco, riflettiamo su questo. Benissimo. Allora, ricordiamolo. Siamo stati in compagnia di Silvia Luciani e Adelina Zarlenga, coautrici del documentario Hunger for Bees, che sarà programmazione al Clorofilla Film Festival il prossimo 11 agosto. Un abbraccio, un in bocca al lupo, un saluto ad entrambe. Grazie, e tanti saluti a tutti. Ciao, a presto, ciao. Ciao. Alessandro De Pascale, autore del documentario L'occasione bruciata, quando la bioenergia fallisce, al Clorofilla Film Festival il prossimo 14 agosto. Alessandro, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie a voi dell'invito e un saluto a tutti i radioascoltatori. Allora, un reportage, di cosa si parla, a parte il titolo che un po' individua l'obiettivo della vostra ricerca? DLE e bioenergie, di come in realtà le bioenergie abbiano conservato di bio in molti casi solo il nome, e quindi della mancata sostenibilità di alcune bioenergie. Io ho individuato diversi casi in giro per l'Europa e siamo andati a documentarli, quindi a far vedere perché, intanto far spiegare cosa sono le bioenergie, perché spesso può sfuggire all'utente finale, no, dell'energia, e quindi biomasse, la produzione di pellet, piuttosto che biocarburanti, quindi far vedere come si producono e perché in molti casi in realtà arrecano danno all'ambiente, all'avifauna in particolare. Sì, sì, sì. C'è anche, se non sbaglio, l'ambiguità rispetto all'energia ricavata dalla combustione della spazzatura bruciata, che viene poi utilizzata come fonte energetica, ma in realtà non si tratta di bioenergia. Sì, in realtà no, nel documentario... I termovalorizzatori, no? Sì, nel documentario in realtà ci sono più le biomasse, okay. Si parla delle biomasse, quindi di questi grandi pentoloni. Uno dei casi è la provincia di Cremona, che ha il più alto numero uno dei maggiori numeri in Europa come concentrazione di piccoli impianti a biomasse, sono dei pentoloni in cui dentro vanno cereali, piuttosto che inizialmente era prevista l'uso esclusivo, insomma, del letame delle aziende agrotecniche. Oggi invece, dato che è diventato un business, perché questa energia è incentivata, fortemente incentivata dall'Unione Europea con il conto energia, glielo paghiamo noi ogni due mesi in bolletta, questo incentivo che gli viene dato, che blocca il prezzo e fissa per anni il prezzo dell'energia, oggi ci finiscono dentro questi pentoloni i cereali piuttosto che mais e quant'altro. Stesso discorso per la produzione dei biocarburanti, il biofuel che acquistiamo alle normalissime pompe di benzina. Ebbene, intanto c'è un problema legato al fatto che è un prodotto food, alimentare, quindi che viene sottratto all'alimentazione, certo, umana o degli animali, quindi interi terreni, e c'è un problema anche poi legato quindi alla perdita di biodiversità. In Germania siamo andati in un land che è praticamente un'intera distesa di monocultura che viene fatta per alimentare. In questo caso, in questo land, ci sono i due più grandi impianti a biomasse del mondo, e vederli dall'alto con il drone è impressionante. Una distesa di pentoloni che mangiano continuamente tutta la produzione che in quel land storicamente si fa di mais. Ebbene, in quel land gli agricoltori e gli allevatori sono costretti a importare il mangime, nonostante ci sia un'elevata appunto produzione quasi esclusiva di mais, proprio perché questi pentoloni mangiano questa produzione per produrre biogas. Sì. E cosa c'è di sostenibile in questo? Certo. Oppure cosa c'è di sostenibile nel produrre il pellet per le nostre stufe, o in Nord Europa per le centrali elettriche che si alimentano a pellet, se tagliamo la foresta per produrre il pellet e quindi non usiamo più gli scarti? Anche in quel caso era sbagliato il principio in partenza, perché il pellet nasce per utilizzare gli scarti, ad esempio, dei mobilifici, però parte da una situazione già sbagliata in partenza, perché in realtà già quella segatura lì non veniva buttata o sprecata, si produceva i pannelli multistrato, il truciolato e quant'altro, quindi già quello scarto non c'era in partenza. Sì. E invece quindi oggi la realtà è che si tagliano le foreste per produrre il pellet. C'è un caso che raccontiamo in Sardegna, poi siamo andati in Russia, dove c'è il più grande impianto al mondo per la produzione di pellet, e il risultato è che stanno tagliando la foresta, ovviamente, per alimentare questo impianto, che produce 1 milione di tonnellate di pellet all'anno per l'Unione Europea. Sì. Perché un po' come è stato com'è per il gas, la Russia ha capito che c'è nel mercato più grande che ha di fianco qui sul versante europeo una grande richiesta di questo prodotto, e quindi ha nazionalizzato questo impianto, un po' come è avvenuto per la Yukos per il gas, e oggi è il principale esportatore di pellet nell'Unione Europea. Alessandro, stante queste criticità, quali sono invece gli esempi virtuosi che avete individuato rispetto alle bioenergie? Ma purtroppo al momento insomma, noi siamo, allora partiamo dal presupposto che noi non siamo andati a cercare le legalità, sarebbe, certo, stato troppo facile andare a cercare le legalità. Noi siamo andati a vedere quali sono le strutture che ha sì, creato intanto la politica dell'Unione Europea, ed questo documentario esce in questo momento, è un documentario destinato al mercato televisivo europeo, esce in questo momento perché in Europa si sta discutendo la RED, che è il nuovo, diciamo, regime che, diciamo, dovrà normare le rinnovabili in generale, e quindi anche le biomasse e le bioenergie, che sono una parte importante delle rinnovabili. Queste strutture sono date dal fatto principalmente che se tu incentivi fortemente un'energia che da sola non starebbe in piedi, perché la realtà è questa, di fatto comunque stai alterando e drogando il mercato, e quindi susciti degli interessi economici molto forti. L'altro, certo, problema grosso, al di là dell'inquinamento dato dall'uso di pesticidi, perché se tu produci il mais per il consumo umano devi sottostare ovviamente a dei limiti, se lo devi buttare in un pentolone per fare energia ovviamente puoi fare un po' come ti pare, no? Sì, e sì. L'altro aspetto è l'aumento dei prezzi dei terreni, perché entrano in gioco società che arrivano con i soldi in bocca e comprano i terreni, perché ovviamente è diventato un business tutto questo. Bene, oggi si sta ridiscutendo in Europa questo regime. Quindi il documentario mostra quali sono le criticità che ci sono oggi in questo settore, per tentare intanto di far capire ai cittadini dove, gli europei, dove stanno finendo i soldi che tutti i mesi ci vengono prelevati sulle nostre bollette elettriche, che questa energia al momento non è sostenibile, e quindi tentare insomma intanto di fare un po' di informazione su questo, no? Sì, e sì. Tentare di far capire quali possono essere anche le energie invece su cui si dovrebbe puntare realmente rinnovabili, come possono essere l'eolico, il solare. Sì, sì, sì, sì. Senti Alessandro, c'è una pagina Facebook, un sito internet di riferimento per saperne di più? Sì, allora, intanto online sono disponibili sia i trailer delle varie storie, sono 5 storie in giro per l'Europa, che una pagina. Allora, il documentario è stato prodotto dalla Packard Foundation e da due umbrella organization che raccolgono le associazioni ambientaliste in Europa, che si occupano di avifauna, protezione dell'avifauna, in Italia la LIPU per intenderci, piuttosto che del settore dei trasporti e dell'energia, che è l'altro punto importante. Quindi cercando con il titolo inglese del documentario, che è Burning Issue, When Bioenergy Goes Bad, c'è una pagina dove all'interno appunto viene spiegata qual è la questione, la problematica, di cosa parla il documentario, e sono disponibili i trailer delle varie storie. Due sono le storie italiane, lo citavo prima, uno è il pellet sardo, l'altro le biomasse in provincia di Cremona, poi c'è un'altra storia in Romania, in Germania, in Russia e così via. Benissimo. Quindi sì, c'è la possibilità appunto di approfondire l'argomento online, e presto verrà fatta la versione italiana, clorofilla, appunto proietteremo quella che è la versione italiana, sottotitolata in italiano, ma sicuramente presto avverrà il doppiaggio in italiano, perché come dicevo prima è destinato questo documentario al mercato televisivo europeo, quindi in ogni paese l'acquirente farà il doppiaggio e la messa in onda nella prossima stagione televisiva. Bene, allora Alessandro, ci diamo appuntamento al clorofilla, un abbraccio e buon proseguimento. Grazie, grazie, ci vediamo quindi il 14, la proiezione al clorofilla nell'ambito di Festa Ambiente a Pescia, vicino Grosseto. Perfetto. Alessandro, presto, un abbraccio, ciao. Alessandro De Pascale, autore del documentario L'occasione bruciata, quando la bioenergia fallisce, al Clorofilla Film Festival il prossimo 14 agosto. Paco Mariani di Distribuzioni Dal Basso, per una riflessione che ci accompagnerà in questa puntata, ultima puntata prima della pausa d'agosto, per riprendere poi a fine mese e riprendere anche questo discorso. Paco, ben ritrovato. Buongiorno, buongiorno a tutti e tutti. Allora, con te per parlare di questo, avete lanciato questo stimolo, la nostra riflessione sulla vicina fine del monopolio SIAE in Italia e sulla SIAE, e come ti dicevo quando ci siamo sentiti l'altro giorno, sto lavorando parecchio da tanti anni, prima a livello musicale e poi per esempio seguendo da vicino l'attività di Artisti 7607, che si sono offerti anche come alternativa al monopolio della SIAE. Allora, con te per lanciare questo stimolo, che poi sicuramente da settembre-ottobre in poi riprenderemo in maniera un po' più articolata. Sì, certamente noi abbiamo valutato che fosse insomma importante dire la nostra, anche se in realtà sul discorso, in più che sul discorso SIAE, in generale sul discorso del copyright, sono anni appunto che ci battiamo per un utilizzo consapevole del Creative Commons e con tutto ciò che ne consegue. Ci sembrava però opportuno appunto mettere a disposizione sul nostro blog, sul blog che c'è sulla nostra piattaforma di OpenDDB, un primo spunto di riflessione che vuole essere ovviamente condiviso con tante esperienze e soprattutto messo sotto la lente di una riflessione collettiva, nel senso che è ovvio che il tutto il tema del monopolio SIAE e insomma il tramonto di questa fase tocca principalmente i musicisti e il mondo dei creativi musicisti indipendenti, ma in realtà poi va a toccare tantissimi altri ambiti come anche il nostro, di documentaristi, autori, registi e quant'altro. La riflessione sicuramente tocca diversi punti, nella consapevolezza che siamo tutti abbastanza d'accordo sul fatto che come stanno le cose oggi non si può più andare avanti da questo punto di vista, nel senso che ormai le criticità e le contraddizioni sono tante, variegate, e c'è la necessità di pensare a un cambio di passo e a una riformulazione delle logiche di funzionamento. Nella nostra riflessione però, ecco, abbiamo approfittato anche del dibattito nazionale che c'è in queste settimane, vedi tutta la polemica tra Fedez, il ministro Franceschini, ma anche tutto il discorso che c'è stato sulla esperimenti come quello che può essere Sound Reef o Patamu o altre esperienze di questo tipo, tutte esperienze che sicuramente noi riteniamo molto opportune perché vanno a erodere in qualche maniera il meccanismo attuale di monopolio, ma in una fase come quella in cui siamo di potenziale cambiamento crediamo che si possa e si debba fare un ragionamento molto più ampio. Noi non crediamo affatto che la soluzione passi esclusivamente per un semplice cambio di logica. Non pensiamo che passare da un monopolio a un mercato libero risponda in automatico a tutte le grandi, enormi difficoltà che il panorama indipendente in questo paese vive. La storia ormai anche più recente anche in Italia ci ha già dimostrato come le liberalizzazioni, se non sono affiancate da un ragionamento anche politico a latere e a che lo supporta, non hanno portato a particolari vantaggi né per chi usufruisce in questo caso dei beni culturali né chi li produce. Noi crediamo vivamente che vada ripensato da capo e fino in profondità tutto quello che è il meccanismo stesso del copyright, che non significa demolire il copyright, certo, perché Creative Commons per esempio non significa assolutamente questo, ma significa, come nell'esempio che citavamo nell'articolo anche un po' in maniera provocatoria, fare in modo che noi citavamo questo esempio che era l'ultimo di una lunga serie di questi bambini di una scuola in provincia di Monza e Brianza che sono stati multati perché hanno usato dei brani protetti da copyright, in questo caso sotto la tutela SIAE. Chiaramente è un esempio diciamo duro ed efficace, ma esattamente rappresenta ciò che noi vogliamo, su cui vogliamo ragionare. Ripensare il copyright significa ripensare nell'epoca in cui siamo e nei cambiamenti che comunque anche tutta l'evoluzione tecnologica ha messo in atto, ripensare anche proprio alla radice cosa significa copyright, in quali casi è giusto tutelare un'opera e in quali casi forse non ha più senso ed è obsoleto pensarla con questa chiave di lettura, ecco. Paco, in questo senso avete creato uno spazio dove sia possibile contribuire o comunque quantomeno informarsi rispetto al dibattito in corso? Uno spazio sul sito? Sul web, sì. Beh, il nostro, diciamo che appunto nella versione nuova della nostra piattaforma che andò online qualche mese fa, abbiamo aperto anche la sezione del blog proprio perché ritenevamo opportuno cominciare anche non solo a ridistribuire opere culturali e creative, ma anche a costruire uno spazio web dove si potesse cominciare a fare del dibattito, sì, tra noi, le community che ci seguono, gli autori, eccetera. Ovviamente noi, come d'altronde facciamo ogni mattina, siamo assolutamente pronti a trovare assieme agli autori, le autrici, ma anche appunto tutte le persone che reputano di avere qualcosa da dire in materia, la possibilità di costruire un dibattito che sia inizialmente su scala digitale e poi magari porti piano piano anche a un movimento politico, come lo vogliamo chiamare, che si faccia, che prenda in mano questi aspetti e che provi a costruire un discorso politico condiviso. Non è una battaglia assolutamente secondaria, sappiamo benissimo che nella trasformazione dall'analogico a digitale si stanno ripensando tutti i meccanismi di tutela e in altri casi anche di controllo della produzione culturale di questo paese, non solo, per cui noi riteniamo che sia una battaglia estremamente importante e non ci sembra assolutamente casuale che questo impulso al cambiamento, o meglio a un certo tipo di cambiamento che è narrato in queste settimane dai giornali, arrivi in realtà in questo caso anche da cantanti mainstream come può essere Fedez o un Gigi D'Alessio o altri musicisti di questo tipo, perché in realtà il rischio è che se ci si appoggia esclusivamente a un processo di liberalizzazione del settore e delle logiche di funzionamento senza porsi la domanda di come andare invece a ripensare anche le stesse logiche di funzionamento, noi non vedremo altro che un adeguamento tecnologico a ciò che esiste già e ai problemi che quindi ci sono insiti nel modello in cui già viviamo. Nel senso, non penso che se oggi tanti autori indipendenti, che siano essi musicisti, scrittori o registi o quant'altro, hanno già la piena consapevolezza, perché lo vedono tutte le mattine, che questi meccanismi di funzionamento non tutelano concretamente le loro opere e soprattutto non generano minimamente del reddito per questi autori, non vedo cosa possa cambiare nel momento in cui si liberalizza questo tipo di mercato. Certo. Se non si vanno a toccare le logiche su cui si basa questo tipo di funzionamento. Bene, bene. Allora Paco, un segnale lo abbiamo lanciato, riprenderemo sicuramente dopo la pausa estiva con questo ragionamento e chissà, insomma, magari seguiremo anche le vostre prossime tappe, se ci saranno uscite pubbliche o anche di documenti in tal senso, per cui insomma ci teniamo aggiornati e informati. Assolutamente, bene. Assolutamente. Allora, buona estate anche a te e un abbraccio e alla prossima. Grazie, a presto a voi. Ciao. Ed è tutto per Visionari di agosto, di questo inizio agosto, perché adesso, come farà anche questa radio, ci saranno 3 settimane di pausa, lasceremo i controlli per ritrovarli alla fine del mese, con credo l'ultimo giovedì del mese ritorneremo con Visionari in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, in streaming dal sito internet della radio ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. Tutte le informazioni sulla scaletta della trasmissione e su Visionari le trovate sul sito della radio, sempre sull'home page, colonna centrale alla voce trasmissione Visionari, sulla pagina Facebook Visionari Radio Onda Rossa. Per comunicare con noi l'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.